versi che c'ho con delle scuse. Dicono che siamo diversi, perciò ho le porte chiuse. Ma poi questa gente che ne sa di te, fratello, sappi che ci hanno lasciato come le macchine dentro le fabbriche. Fare la ruggine sarebbe facile, ma il loro è uno sbaglio imperdonabile. E quindi penso che mi sono rotto il cazzo e non mi votano. Finché non c'ho il collo rotto, i cani mi rincorrono. Puoi guardarci sorridere tutto il giorno, bro, perché quello puoi starne certo, non ce lo tolgono. Di volare, col sogno di volare, cronache di chi impazzisce dentro un bilocale. Due respiri profondi e rallento i battiti, chiudo gli occhi e dopo conto gli attimi. Finché non va bene, giro con gente che sa quanto vale, anche se sta male, perché non c'è a casa qualcosa da fare. Ma si offrono cene anche se non conviene. Poi brindano tutte le sere con mezzo bicchiere, fra tipo preghiere. Le fumano seduti sulle ringhiere e dicono quello che hanno fatto ieri, perché fare così a noi ce la fa prendere a bene. A noi ci basta questo, non ci manca il resto per prenderci bene. Fino all'alba presto, non si va mai a letto, però sto bene, bene, bene. E lei sta bene, bene, bene. Qui si sta bene, bene, bene. A noi ci basta questo per stare bene, come quei giorni a ottobre con la felpa, che poi la leghi in vita e lasci la maglietta. Con il sole in faccia ma che ti accarezza, come sul lungomare senza il parabrezza, senza sentire quell'ansia che poi ti rigira lo stomaco, con la speranza e un paio di bocce ti tira nel cofano. Cambia colore quando ci mettiamo nell'opera, siamo la parte di cuore fra quella più povera. Sai che diciamo a chi ci rimprovera? Ciao fra, fumo un baobab, per questo c'ho la voce rauca. Scrivevi di quando era ammanettato in aula, adesso la tua voce non c'è come Laura. Vivo bene, mi conviene, cronache di chi fa festa se un amico viene. Due respiri profondi e mi godo gli attimi, chiudo gli occhi e penso siamo matti, sì, però ci fa bene. Quando certe sere mi prendo male, poi chiamo qualcuno che mi dice ti passa a prendere il tempo di mettermi una cosa addosso, e finiamo ubriachi a girare come i vagabondi per strada con le bocce piene, fra senza catene, un freno che ci tiene. Torno a casa che non mi funziona un rene, però lo sai che c'è? Che quando mi alzo sto bene, a noi ci basta questo.